Ci muoviamo all'interno del progetto Così sarà, progetto che è attivo da circa un anno e che è grosso modo a 2/3 del proprio cammino. Il progetto, ricordo, è immaginato per progettare la città di domani ed è stato scandito in tre fasi: una prima fase che riguarda la mappatura delle città esistenti, una seconda fase che riguarda l'individuazione di nuovi orizzonti e una terza fase che riguarda la costruzione della città di domani. Siamo in piena seconda fase, quindi ci stiamo interrogando insieme a tutti i partecipanti al progetto. Ricordo che i destinatari sono i giovani tra gli 11 e i 25 anni. Ci stiamo interrogando intorno ai territori, ossia ai sistemi valoriali su cui costruire la città di domani. Dal momento che ci stiamo avvicinando alla fase conclusiva, lanciamo un'iniziativa, un bando, un concorso di idee, come lo abbiamo chiamato, che ci introduce ormai alla conclusione del progetto stesso. In cosa consiste questo concorso di idee? Il progetto è stato pensato per dare ai giovani, quei giovani appunto tra gli 11 e i 25 anni, una centralità nella progettazione, nell'immaginazione della città che ci aspetta, della città di domani. E proprio nel rispetto di questa vocazione profonda del progetto che vuole dare ai partecipanti, proprio in quell'ottica di partecipazione che pertiene alla natura del progetto stesso, non soltanto la dimensione dei fruitori passivi, ma degli attori direttamente coinvolti, abbiamo deciso di mettere in campo un'iniziativa che attribuisca per l'appunto ai giovani il ruolo di progettatori del domani. Sottolineo che mentre fino ad ora le attività, buona parte delle attività che sono state messe in campo, sono state legate essenzialmente all'iniziativa, alla capacità operativa, alle visioni dei singoli partner del progetto, oltre ad Emilia Romagna Teatro, ricordo che il progetto Così sarà coinvolge altre velocità, il Cassero, Genderbender Festival, Kepler 452, la Baracca dell'Argine. Questa azione che stiamo mettendo in campo è un'azione che vede simultaneamente coinvolti tutti i partner, che è stato il frutto di un pensiero, di una progettualità condivisa tra i partner stessi. Il concorso di idee è indirizzato a giovani che studino, operino, che vivano, nel caso a Bologna, e chiediamo loro sostanzialmente di regalarci delle visioni, delle intuizioni, delle proposte relative a come ripensare la città di domani, proprio alla luce di quel sistema valoriale che in qualche modo stiamo cercando di isolare e che si è venuto per l'appunto definendo durante i circa 12 mesi di lavoro che ci stiamo lasciando alle spalle. Orizzonti che possono riguardare l'apertura, la sostenibilità, l'inclusività, la non violenza, le pari opportunità, l'integrazione, tutto quell'orizzonte appunto, come dicevo, di valori su cui possiamo immaginare di costruire una nuova comunità. Altro aspetto che ci è sembrato significativo è di immaginare che queste visioni che riguardano il futuro della nostra città possano essere ancorate a un luogo del cuore di questi giovani progettatori, che a partire da questo luogo del cuore possano disegnare un orizzonte che riguardi la comunità. Ho usato volontariamente la parola visioni e non la parola progetti. L'ho utilizzata perché non richiediamo direttamente ai ragazzi di essere in condizioni di elaborare un progetto strettamente detto. Ci interessa che ci sia un'idea, ci interessa che ci sia una prospettiva, ci interessa che ci sia un afflato progettuale che poi sarà sviluppato e calato e realizzato in progetto grazie all'accompagnamento dei tutor del progetto medesimo. Le sei realtà che animano il progetto Così sarà e che ho prima elencato si faranno carico per l'appunto di questo processo di accompagnamento, che non vuol dire mettersi in cattedra nell'illusione di avere delle certezze o delle verità da consegnare agli altri, ma semplicemente di aiutare con la propria esperienza i giovani a meglio focalizzare l'orizzonte progettuale, ove non siano direttamente in condizioni loro stessi di mettere a punto il progetto stesso in senso tecnico. I progetti che saranno selezionati sono sei. La fascia di età che comprendiamo è una fascia ampia, dagli 11 ai 25 anni, ma di fatto l'abbiamo sezionata in tre segmenti. Saranno selezionati due progetti under 14, due progetti under 19 e due progetti under 25. Per ciascun progetto selezionato sarà attribuito un budget di 2.500 euro per la realizzazione del progetto medesimo. La call sarà aperta fino alle ore 00 del 10 gennaio. I vincitori o comunque i progetti selezionati saranno comunicati a fine gennaio nell'ambito di Città all'Orizzonte l'evento conclusivo che si realizzerà all'Arena del Sole della seconda fase del progetto, ossia la fase della mappatura dei nuovi orizzonti, che al tempo stesso funzionerà da cerniera per introdurre per l'appunto la terza fase, che è quella di operatività, per cui dopo tutto il lavoro di ricognizione e di riflessione che si è sviluppato in questi mesi avremo modo di tentare di realizzare